12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Dopo la pausa natalizia siamo pronti a ripartire con i nostri approfondimenti sul mondo del lavoro e la puntata di oggi è dedicata al lavoro nel settore edile. Cercheremo di capire quali sono le professionalità richieste in questo campo, quali sono le possibilità lavorative in questo momento e come un giovane possa accedere a questo settore lavorativo. Lo faremo insieme al nostro ospite Paolo Cibin, presidente della cooperativa Labor di Venezia. Nel 10° rapporto congiunturale del settore dell'industria delle costruzioni per il territorio veneto a cura dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, si trovano dati non molto positivi. Si dice che dal 2007 al 2012 il settore ha perso il 30% dei volumi produttivi e vi è stata una riduzione di circa il 16% dei lavoratori occupati in questo settore. Si dice anche che il calo del volume degli investimenti in nuove abitazioni è pari al 43,1% e ancora maggiore è la diminuzione del comparto dei lavori pubblici con un calo del 44,7%. L'unico comparto con risultati positivi è quello relativo agli interventi di recupero del patrimonio abitativo, grazie soprattutto alle agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazioni edilizie. Le potenzialità di lavoro non mancherebbero in realtà nelle infrastrutture o nella rigenerazione urbana, ossia il recupero dell'esistente. Ma ad esempio le aziende che lavorano per la pubblica amministrazione vengono pagate con ritardi consistenti, creando quindi grandi difficoltà. Nel sito del Borsino delle Professioni, nella sezione quotazioni, ovvero la percentuale di occupabilità in Veneto di determinate professioni, il settore edile tuttavia presenta un 58% e se si va a vedere il dato per provincia troviamo tra le più alte percentuali l'85% a Belluno e il 72% a Treviso. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E ora sentiamo il punto di vista di chi è dentro questo settore e diamo il benvenuto al nostro ospite Paolo Cibin, presidente della cooperativa Labor di Venezia. Paolo, innanzitutto Labor chi è e di che cosa si occupa nello specifico? Intanto buongiorno, la Labor è una cooperativa sociale che si occupa di inserimento di persone svantaggiate. Il nostro settore principale è l'edilizia e cerchiamo insomma di occupare questi ragazzi in questo settore un po' difficile in questo momento. Ecco Paolo, quali sono le professionalità ricercate nel settore edile? Adesso si torna a un po' all'antico, perché ultimamente tutti si specializzano a fare una sola mansione di quanto riguarda il reparto edile. Noi invece cerchiamo di dare una risposta a 360 gradi, cioè uno dal disegno cercare di dare un'opera completa. Ecco, ci puoi proprio fare un po' un esempio, ecco, magari di quali sono le mansioni che si possono andare a ricoprire? Beh, noi abbiamo dalla carpenteria, la muratura, l'intonaco, le piastrelle, alle finiture in genere. Ecco, quindi sì, insomma, mansioni differenti e variegate. Sì. È quello che ci è sempre piaciuto fare e che adesso viene richiesto in questo momento un po' di crisi. Ecco, quindi insomma ci vuole un po' di capacità anche di fare cose differenti contemporaneamente, mentre mi pare di capire che dicevi che un po' questa è la tendenza attuale, ma che mentre prima invece ci si specializzava in un'unica mansione. Sì, in poco tempo sono nate tante imprese le quali operavano su un settore specifico e basta. Mentre adesso è quello che noi abbiamo sempre fatto è quello di coprire a 360 gradi. Benissimo. Non ci vuole la professionalità speciale, una patente speciale, ci vuole un po' di buona volontà. Bene, Paolo, ora prima di continuare il nostro approfondimento ci fermiamo per un breve intervallo musicale. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, stiamo parlando del lavoro nel settore edile con Paolo Cibin, presidente della cooperativa Labor di Venezia. Paolo, ci hai raccontato un po' quali sono le professioni che sono richieste in questo settore e anche come si cerca di coprire, ecco, variegati compiti senza specializzarsi nello specifico, ecco, in una cosa piuttosto che in un'altra. Ora vorremmo capire quali sono un po' gli aspetti su cui viene valutata la possibile assunzione di un lavoratore. Beh, diciamo che prima valutiamo la persona, se è una persona, la serietà della persona, perché in questo campo non ci si può inventare, ma bisogna crescere assieme. Perciò una persona che sia un ragazzo, una persona seria che venga a disposizione, e noi dedichiamo volentieri del tempo perché uno abbia voglia di fare. Ecco, oltre a questo, Paolo, quindi sicuramente, insomma, una buona motivazione, anche credo un'umiltà, insomma, nell'imparare. C'è, non so, l'aspetto formativo, il fatto di aver fatto una scuola o dei corsi, questo conta in qualche modo? Sicuramente conta, e adesso speriamo, anzi, il mio mio e non solo mio, come si può dire, diciamo che speriamo di tornare, come dicevo prima, come una volta, pochi anni fa, che tantissimi, c'erano tanti corsi anche che riguardavano l'edilizia e davano una mano ai ragazzi o alle persone che volevano inserirsi in questo lavoro, e li preparavano un po', diciamo, la base veniva importante, e negli ultimi anni si è un po' abbandonato, come dicevo prima, perché col boom si è trascurato un po' questa cosa. Noi cerchiamo di farla ancora, noi cerchiamo di mandare i ragazzi possibilmente a fare qualche corso, oppure facciamo qualche ora anche di addestramento, diciamo, a ore perse per insegnare ai ragazzi appunto le basi fondamentali. Ecco, quindi sicuramente l'esperienza poi sul campo, ma ecco, insomma, è importante, sì, anche poi una base, ecco, di studi, formativa. Capisca cosa sta a fare. Paolo, ecco, un'ultima domanda, un po' forse l'abbiamo capito, ecco, da quello che ci stai raccontando, però in questo momento storico, economico, il settore edile, come sta andando? Che possibilità occupazionali effettive può offrire ad un giovane? È stata una bella domanda. Diciamo che in questo momento di crisi, diciamo che l'edilizia penso che sia uno dei settori in cui ha risentito di più di questo problema. Prospettive, ci sono anche delle prospettive, bisogna cercare una nicchia e di dare delle risposte un po' specifiche a delle esigenze attuali, perché diciamo la nicchia una volta era molto larga, adesso si è ristretta, e diciamo che noi, grazie alla specializzazione che abbiamo cercato di ottenere in tutti questi anni e la professionalità di dare più di una risposta alle persone, perciò si avvicinano ancora fortunatamente, non so fino a quando tenga, comunque diciamo che io sono ottimista, e anche per qualche ragazzo che abbia voglia di mettersi di buona lena a imparare, c'è ancora la possibilità di lavorare. Benissimo Paolo, io ti ringrazio per essere stato qui con noi e ti auguro buon lavoro. Grazie anche a voi. 12 minuti, a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. E dal settore dell'edilizia vi segnalo la Scuola Edile di Venezia, che svolge attività didattico-formativa a favore e nell'interesse di quanti operano nel settore delle costruzioni e del restauro, dagli imprenditori ai lavoratori e ai giovani che entrano nel mondo del lavoro. Per chi volesse avere informazioni su tutti i corsi, può collegarsi al sito www.scuolaedilevenezia.it. Vi segnalo anche la Scuola Edile di Treviso, che aprirà le porte ai ragazzi delle scuole medie e alle famiglie per la giornata della scuola aperta il 19 gennaio. Un'opportunità per avere tutte le risposte sull'offerta formativa e sugli sbocchi che il corso di operatore edile garantisce. Per informazioni potete collegarvi al sito della scuola www.scuolaediletreviso.it. Vi segnalo infine il sito www.edilportale.com, nel quale poter trovare molte informazioni su possibilità formative nel settore dell'edilizia a livello regionale ma anche a livello nazionale. E per oggi è tutto, ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.